stata una sentenza molto, molto attesa in aula. Nei minuti che hanno preceduto l'ingresso del Presidente della Corte si respirava proprio un'aria tesa, perché è stato un processo molto, molto combattuto dalle diverse parti fino a questa mattina. Sono finite questa mattina le repliche dopo le discussioni finali degli avvocati. Si temevano dei cambiamenti rispetto a quelle che erano le attese. Oggi viene pronunciata una sentenza importante, perché oltre a quelle che sono le condanne che sono state inflitte ai tre imputati, abbiamo da un lato tutto il discorso dei mandanti, che ovviamente non erano presenti come imputati in aula perché morti nel corso degli ultimi di diversi anni a questa parte, e poi abbiamo l'invio alla procura delle deposizioni e degli atti che la Corte ha raccolto e che riguardano delle posizioni specifiche. La principale è quella di tre esponenti appartenenti alla Polizia Scientifica di Roma e che fecero una perizia che poi era importante per l'accusa, quella che chiamava in causa il cosiddetto aviere, mentre questi poliziotti cercarono di attestare la parola, un'altra parola rispetto ad aviere, che era corriere. Un tentativo di cambiare un'intercettazione ambientale importante, in cui parlava Carlo Maria Maggi, l'ispettore per il Triveneto di Ordine Nuovo, per cui una delle principali organizzazioni di estrema destra che ha legato il proprio nome alle stragi della strategia della tensione. Ed adesso insomma la procura di Bologna dovrà vagliare nel dettaglio quella perizia e le carte insomma correlate a quella perizia. Quindi questo potrebbe voler dire che si indaga ancora e si allarga anche l'inchiesta? Si indagherà, adesso la procura di Bologna dovrà valutare le carte. Peraltro è stata disposta la trasmissione anche della deposizione di un altro personaggio importante, che è Stefano Menicacci, che è stato l'avvocato storico di Stefano Delle Chiaie, il leader di Avanguardia Nazionale, e del nipote di Nunzio, il cui zio era un personaggio direttamente legato alle vicende del conto Bologna, per cui diciamo a tutta la parte finanziaria sui soldi della strage, soldi che partirono dalle casse del Banco Ambrosiano e poi insomma seguirono i flussi che ha indicato la Procura Generale. Quindi tu hai ricordato prima che appunto ovviamente per ragioni di morte non c'erano i principali mandanti. Parliamo ovviamente di Licio Gelli, quindi molto, come dire, ha seguito in questo processo la questione del conto trovato, cioè dei documenti appunto col conto Bologna trovati a Licio Gelli. Sì, la parte finanziaria ha costituito un filone importante di questo processo. Gli ufficiali della Guardia di Finanza che hanno fatto per conto della Procura Generale le indagini finanziarie sono riusciti a ricostruire dei flussi che portano a Federico Umberto D'Amato, alle sue proprietà immobiliari, nello specifico un appartamento a Parigi. Adesso attendiamo, che saranno molto importanti, le motivazioni della sentenza, che dovrebbero arrivare entro 90 giorni, ma il Presidente ha già fatto sapere che potrebbero essere, cioè il periodo potrebbe essere rinnovato di altri 90 giorni, per cui in totale insomma tra 6 mesi più o meno potremmo avere le motivazioni. Dalle cronache delle varie udienze, sono state 76 quelle di questo processo, molto per quanto riguarda invece gli imputati, quelli vivi, quelli condannati oggi, è girato attorno al video che ritraeva Bellini il 2 agosto a Bologna. Sì. E appunto questo è stato l'elemento centrale anche di discordia con la difesa. Assolutamente, quel video sì è stato centrale. Anche in questo caso lo scontro tra procura generale e difesa e difensori si è combattuto attraverso perizie. Secondo quelle della procura generale era altamente compatibile l'immagine dello sconosciuto che si vede nel video del turista svizzero Poitiera con Bellini, mentre per le difese era totalmente improbabile che quell'uomo fosse Paolo Bellini. Sta di fatto che il fatto che quell'uomo sia stato riconosciuto dall'ex moglie di Bellini come il suo ex marito, e poi l'alibi che aveva retto nella prima indagine a carico di Bellini sulla strage, quella avviata nell'83 e poi aggiunta a conclusione con un proscioglimento nel 92, aveva potuto basarsi su questo alibi. La moglie diceva di aver incontrato Paolo Bellini intorno alle 9 del mattino a Rimini e di essere partiti per le vacanze al Tonale insieme subito. In realtà, durante prima le indagini e poi con molto coraggio a processo, ha ribadito che suo marito arrivò all'ora di pranzo, più verso l'una che verso mezzogiorno, e fu solo in quel momento che partirono insieme per andare al Tonale. Di conseguenza c'erano diversi elementi a carico di Bellini che poi hanno probabilmente contribuito a portare alla condanna letta poco fa. Tu in questo processo sei stata anche chiamata a testimoniare per il tuo lavoro giornalistico. Come dire, quali aspetti hai contribuito a chiarire? Ma diciamo che si è parlato durante la mia deposizione molto di P2, non solo per quello che riguarda i legami della P2 con il Banco Ambrosiano, ma anche con quello che era venuto prima, per cui tutto il capitolo legato a Michele Sindona, e poi si è parlato molto anche di Vittorio Corsio, il pubblico ministero di Roma che venne assassinato nell'estate del 1976 a Roma. Per questo omicidio è stato condannato in via definitiva Pierluigi Concutelli, un esponente di Ordine Nuovo, ma la matrice politica di quell'omicidio, per cui un delitto politico commesso dall'estrema destra, di certo non va a sviscerare ogni aspetto che c'è dietro il movente. Cioè, Corsio stava indagando sulla P2, sui soldi della P2 e in particolare su alcuni flussi che generati dai riscatti di sequestri di persone a Roma commessi dalla banda dei Marsigliesi poi andavano verso l'estero e costituivano nei casinò della Costa Azzurra probabilmente una somme a disposizione dell'apparato criminale della P2. Ovviamente siamo al primo grado, bisognerà poi aspettare che diventi definitivo appunto anche questo processo, però possiamo dire che ci stiamo avvicinando molto alla chiusura del cerchio su questa vicenda? Sì, diciamo che questo processo ha aggiunto degli elementi che riguardano soprattutto la matrice politica e il livello superiore rispetto a quello esecutivo, per cui adesso attendiamo le motivazioni, vediamo anche quello che accade a Brescia, perché non dimentichiamoci che sono state chiuse le indagini a carico di due neofascisti che gravitavano nel mondo di Ordine Nuovo Verona, per cui anche per quanto riguarda la strage di Piazza della Loggia, di cui non molto ci potranno essere delle novità che contribuiranno anche in quel caso a dare ulteriori elementi per una piena ricostruzione storica di quel periodo.